Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per la cortese attenzione a tutti voi, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. È un paio di comunicazioni di servizio, ringraziamo Leopoldo Tosi e Guido Martinotti per le utili segnalazioni e gli spunti che ci hanno voluto far avere. Barbara, che non si firma in altro modo ma ha una bellissima calligrafia, vuole sapere qual è che cos'è la nostra sigla, quella che state sentendo adesso. Beh, è uno dei tempi della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, si intitola Marcia al Patibolo, ma non abbiamo nessuna intenzione patibolare naturalmente. Ci sentiamo. Altri ce l'hanno per noi, altri.